6F. Ascolta e rispondi. Quando verrai qui? Verrò domani. Che cosa vorrai fare da grande? Vorrò fare l'architetto. Che cosa berrai? Berrò una birra. Che cosa tradurrai? Tradurrò un articolo. Quanto rimarrai? Rimarrò 2 mesi. Quando porrai tutto in ordine? Porrò tutto in ordine appena possibile.